Mix 24 di Giovanni Minoli. A 30 anni dalla morte di Michele Sindona è appena uscito un libro molto interessante, Sindona, biografia degli anni 70, che è l'occasione attraverso cui ripercorrere la storia economica italiana degli anni del boom e della grande trasformazione produttiva. Ma prima di parlare con l'autore, Marco Magnani, economista dal 1982 in Banca d'Italia e attuale vice capo del Dipartimento Economia e Statistica, ascoltiamo la voce dello stesso Sindona in un faccia a faccia con Giovanni Minoli del 1982. 83. Michele Sindona, siciliano, avvocato. Anni fa l'Economist, il prestigioso giornale inglese, lo ha definito il più grande finanziere europeo. Nel 74, al culmine della carriera, controllava 146 società in 11 paesi del mondo. Condannato a 25 anni di prigione dal Tribunale di New York per il fallimento della Franklin National Bank, è recluso nel penitenziario di Otisville, a 1.5 ore da New York. È un imputato con 65 capi d'accusa e ha subito la più severa condanna che un colletto bianco abbia mai avuto nella storia degli Stati Uniti. Il suo nome è forse legato al più gigantesco e losco intreccio del secolo. Lui ha risposto alle nostre domande dall'interno del penitenziario di Otisville. Ecco, ma lei perché adesso è disposto a venire in Italia? Io sono disposto a venire in Italia perché è incominciata il ricatto, la minaccia, la persecuzione contro la mia famiglia. Ecco, cosa le faceva credere che i 25 anni di galera che ha avuto negli Stati Uniti fossero meglio di un giudizio in Italia prima? Solo questa paura per la famiglia? Io pensavo di non dover essere condannato in America. Ecco, ma lei 25 anni e 25 giorni. Ma lei si è sentito tradito dall'America in questa condanna? Io mi sono sentito tradito da magistrati e da rappresentanti del nostro pubblico ministero americano, che sono stati scorretti, disonesti e forse anche corrotti. Ma non era mai stato corrotti da chi? Evidentemente da chi aveva interesse a farmi condannare. E chi era? Il solito gruppo italiano. Ecco, lei in Italia è imputato di bancarotta fraudolenta, di simulazione, di rapimento, di associazione mafiosa. Quale di queste imputazioni teme di più? Nessuna. Sono una più ridicola dell'altra. Quindi è pronto a difendersi? Ma nel modo più assoluto. Lei nega i suoi rapporti con la mafia. Non può negare però di aver avuto rapporti con Gambino e con il suo clan, come ha anche confermato suo genero, Giansandro Magnoni. Che tipo di rapporti erano allora? Io ho avuto rapporti con Gambino e i miei rapporti con Gambino e non con la mafia sono stati dichiarati da me, non trovati da nessuno. Sono stato io a comunicarli. Ecco, ma anche il liquidatore della banca privata, l'avvocato Ambrosoli, era arrivato alla conclusione che attraverso le sue banche la mafia, non solo Gambino personalmente, effettuava sia il riciclaggio di denaro sporco che la copertura dei traffici. Veda, parlare male dei morti in Italia non si può perché è un'ipocrisia. Se ha detto questo, Ambrosoli ha detto una grossa bugia, perché io ho sfidato Ambrosoli, ho sfidato la commissione Sindona, di trovare un solo soldo riciclato. E veda, questo per i non addetti ai lavori può impressionare, ma per addetti ai lavori, come lei può immaginare che dei liquidatori della banca privata, tra cui Ambrosoli, che aveva il solo scopo di denigrarmi, con tanti anni di ricerca, con mano tutti i documenti, non abbia trovato un solo nome che non fosse di prim'ordine. È trovato, ma non è stato ucciso. No. Quando Ambrosoli è stato ucciso, e questa è stata la tragedia per me, Ambrosoli aveva già finito la sua inchiesta, aveva già consegnato tutti i documenti agli americani, già da alcuni giorni, e questi documenti sono pubblici e non c'è mai stato qualcosa che venisse fuori dai conti. Comunque, i nuovi liquidatori, siccome i soldi non si portano in valigia, per nascondere dovevano essere d'accordo la CES Manhattan, e questo è soltanto ridicolo per gli addetti ai lavori, non è stato trovato un solo nome. Ecco. Tanto è vero che noi dicevamo, e avevamo l'orgoglio di dire che la banca privata italiana era la nobiltà delle banche. E questa è la nostra pubblicità. Ecco, il 18 luglio dell'81 però il Corriere della Sera titola a tutta pagina Sindona accusato dell'assassinio Ambrosoli. Fu lui a mandare l'assassino dagli Stati Uniti. Ecco. Che effetto le fece questo titolo? Fece un brutto effetto non per me, ma per le conseguenze che poteva avere sul prestigio della mia famiglia. E le dico una notizia. La notizia è questa. Noi abbiamo saputo che le autorità americane, il governo americano, ha respinto la richiesta di mia estradizione per l'assassinio Ambrosoli per mancanza di elementi. E questo è tanto strano perché il mandato di cattura è stato fatto su due elementi. Un tizio aveva incontrato un certo signor Arrigo, mai da me conosciuto se non dai giornali, all'aeroporto, il quale gli avrebbe detto in aeroporto che stava andando in Italia a uccidere Ambrosoli sul mio mandato. Un tizio che era normalmente delinquente. Il secondo, perché Enrico Cuccia aveva detto che io a New York gli aveva dichiarato che avrei ucciso Ambrosoli. Tutti sanno che Enrico Cuccia non è mio amico. Lui approfitta perché ha della credibilità e fa dichiarazioni del genere. Io vorrei insistere sulla mafia, però, perché domina la scena della sua vita anche all'epoca del suo rapimento e del suo successivo ferimento. Anche qui è stato solo un rapporto casuale. Ma chi glielo dice che domina? Questo è quello che si è detto in Joseph Crimi, notoriamente legato al grande Gambino. Io mi sono incontrato con il signor Gambino. A me non risultava, e non credo che oggi che risulta, che fosse legato a Can Gambino. Joseph Crimi mi disse un giorno, io conoscevo il padre di John Gambino, perché andavo al Caffè Italia, dove vanno tutti gli italiani che vivono in quella zona, a prendere il caffè, e veniva a Caggio Gambino. E quindi lei un giorno che doveva vendere la sua automobile, che era a Cadillac, e l'ho comprata. Ma lei allora come definirebbe i suoi rapporti con la mafia italoamericana? Io non ho rapporti con la mafia italoamericana. Le ho detto, io andavo a fare molte conferenze nei club italoamericani. Ha avuto un appoggio dagli ambienti siculoamericani anche all'epoca della sua fuga? No, no, appoggio dagli ambienti siculoamericani, cosa intende dire? Se io in Sicilia ho avuto appoggio da persone che io ho dichiarato per quello che ho potuto alle autorità americane, non erano assolutamente appoggio di mafiosi. Infatti non mi pare che per la mia fuga sono state accusate dei mafiosi, sono state accusate delle rispettabilissime persone che sono dei professionisti. Che cosa c'è, secondo lei, all'inizio della fine della carriera del finanziere Sindona? All'inizio della fine, che io sto lottando strenuamente, sa che ho scritto al Presidente degli Stati Uniti, sa che il Presidente degli Stati Uniti mi ha risposto, mi ha fatto rispondere all'avvocato della Casa Bianca, dicendo che aveva passato la mia pratica all'ufficio perdono per il perdono, e io gli ho fatto dire dal mio avvocato che non avevo chiesto perdono, che non ho chiesto perdono a nessuno. Gli avevo chiesto soltanto che si rifaccia il processo perché non ho commesso reati. Ecco, ma secondo lei sono nazionali o internazionali le cause? Soltanto nazionali, hanno influenzato la parte internazionale. Quindi posso dire che infatti questo, Cuccia ha inviato il signor Rondelli, suo schiavetto negro, come tutti lo chiamano, attraverso l'Europa a dire state attenti quando è successo il problema qui alla Franklin, che Sindona avrà problemi e manderà i soldi delle banche italiane alla Franklin. Ecco, cosa lei tecnicamente impossibile, e ha spaventato tutti. Perché si sono spaventati? Si sono spaventati perché la comunità finanziaria, lei sa, in materia finanziaria, quando qualcuno ha problemi si spaventa. Cuccia, l'ex presidente della Mediobanca, suo grande nemico, che colpe ha secondo lei? Tutti hanno paura di Cuccia perché è un ricattatore abituale, tutti mi hanno detto. Un ricattatore di chi? Un ricattatore di tutti, perché lui fa fare, e l'ho scritto anche ai magistrati, quando non sono intervenuti, ho dato le documentazioni dei bilanci falsi preparati da Cuccia. Lui si è difeso dicendo io l'ho preparati, ma li hanno firmati i signori Torchiani, i signori Cefis, i signori Corsi, e quindi io non sono punibile. Gli ho fatto presente che aveva commesso il reato di truffa e di aggiotaggio documentandolo nella Montecatini. I magistrati hanno paura di procedere perché lui si vanta di essere il padrone del Tribunale di Milano. Ecco, lei crede al suicidio di Calvi? Assolutamente. Assolutamente no. No, assolutamente ecco no. Perché? Perché conosco abbastanza Calvi. Ecco, ma chi l'ha ucciso secondo lei? Per me chi l'ha ucciso è le stesse persone che lui mi disse nel 1979 che molto probabilmente l'avrebbero ucciso. E chi era? E mi disse, da quando io sono entrato contro il tuo parere, e io avevo dato parere contrario, nella stampa sudamericana, e ho dimostrato che io combattevo le sinistre, la mia vita è in pericolo. E chi l'avrebbe ucciso allora? Quelle stesse che lui ha detto, gliel'ho detto. Lui mi ha detto che era in pericolo. Ma ha fatto dei nomi? Attaccando. No, assolutamente. Ecco, perché secondo lei la giustizia inglese si è affrettato a dichiarare il suicidio di Calvi? È normale questo, negli inglesi ha avuto un certo grado di ipocrisia, non vuole problemi in famiglia. In famiglia cioè? In loggia? Non ho in Inghilterra. La moglie di Calvi lancia pesanti accuse in direzione del Vaticano. Secondo lei sono accuse attendibili? 90% non attendibili. Escludo nel modo più assoluto che quello che ha detto sia vero. Secondo lei perché i rapporti tra Calvi e la finanza vaticana si erano così degradati ultimamente? Io non credo che si siano degradati. Molto probabilmente gli ultimi giorni Calvi avrà chiesto dei salvataggi particolari che la finanza non poteva dargli. Ma lei come giudica l'intervento di Marcinkus nei confronti di Calvi? Da un uomo assolutamente incompetente e irresponsabile nella sua posizione. Lui aveva in mano una banca che era considerata all'altezza sul piano prestigio, non sul piano forza, evidentemente delle prime banche al mondo come la Morgan Guaranty, Trust, e lui prima lavorando con dei broker di seconda categoria l'ha completamente rovinata. Poi mettendosi a fare queste lettere di patronaggi per guadagnare qualche lira, per poterle dare al Papa, per dire guarda come sono bravo, ti faccio guadagnare soldi, nomini cardinali. Quindi lei, io questo che non gli perdono. Quindi lei conferma la sua definizione che come banchiere era incompetente, buono solo a fare la guardia del corpo. Anche il golf, per la verità. Ecco, ma aveva anche delle esperienze personali, lei, per dire questo? Ma io all'inizio ho trattato molte volte con lui, lei sa che Lior era socio in due mie banche, quindi avevo occasione di controllare. Da domande che mi faceva, da quesiti che mi poneva, da consigli che mi chiedeva, sono accorto che era un uomo assolutamente, non aveva mai trattato banca. Ecco, ma e credo che in questo mestiere non si impara il mestiere in pochissimo tempo. Ecco, si dice che già il fallimento della sua banca, la Franklin, quella americana, fu provocato dallo York che ritirò improvvisamente un prestito di 30 milioni di dollari. Lo York non ha mai dato, né direttamente né indirettamente. Queste sono notizie di fonte americana. Un solo dollaro. Infatti io ho fatto una lettera di smentita al giornale americano che aveva pubblicato questo, l'ho invitato ad andare alla FDIC, la banca che ha preso alla Franklin, per chiedere se effettivamente esiste, ed è stato dimostrato che non esiste, ecco. Un solo, quindi non poteva intervenire. Ma lei non si è mai sentito investito del ruolo di banchiere del Vaticano? No, questa cosa significa il ruolo banchiere del Vaticano? Io ho fatto degli affari col Vaticano, credo di aver aiutato il Vaticano in un momento difficile, forse di avergli aiutato una bancarotta, non al IOR, ma all'APSA, all'amministrazione speciale dei beni della Santa Sede, quando ho rilevato tre società, mi hanno consegnato bilanci falsi, gliel'ho detto, mi hanno detto che Dio mi avrebbe compensato e loro mi avrebbero aiutato, cosa che non si sono guardati evidentemente bene dal fare. Avvocato, come spiega il fatto che ogni volta che la finanza vaticana è coinvolta in affari internazionali le cose non sono mai né chiare né fortunate, che spesso si appoggia a personaggi come lei o come Calvi o come Gelli che poi o muoiono o vanno in prigione? Guardi, il Vaticano sino a prima dell'arrivo di Marcinkus si appoggiava internazionalmente agli Ambros di Londra, alla Morgan Guaranty e anche a me. Avvocato Sindona, lei un giorno ha detto ai suoi figli: quando muoio non guardate ai soldi che lascio, ma fate il conto degli amici. Spero che la lista sarà lunga. Avvocato, la lista com'è? Malgrado tutto, posso ancora contare su parecchi amici. Senta, avvocato, un'ultimissima domanda. Ma oltre a questi amici sconosciuti, a suoi figli, resterà ancora qualche spicciolo? Nessuno, ma i miei figli non hanno bisogno, perché per fortuna ho dato loro una buona educazione, hanno imparato a lavorare. Sono dei grossi lavoratori. Michele Sindona viene estradato nel settembre del 1984 e il 18 marzo del 1986 è condannato all'ergastolo quale mandante dell'omicidio Ambrosoli. Muore pochi giorni dopo, il 22 marzo, dopo aver ingerito un caffè avvelenato nel carcere di Voghera. Ecco Marco Magnani, autore di Sindona, biografia degli anni 70, appena pubblicato da Einaudi. Dottor Magnani, secondo lei, omicidio o suicidio quello di Sindona? Io credo che sia stato suicidio. Perché? Le ipotesi sono tante, le ipotesi possibili sono tante. Due magistrati che hanno condotto l'inchiesta su questo episodio sono giunti a questa conclusione, le loro tesi mi sembrano persuasive. Il personaggio che, come diceva Guido Carli, in senso non riferendosi adesso alla sua morte, ma diceva un personaggio sinistro ma di una grandezza indubbia, quindi era uno che sapeva anche giocare anche con la propria vita e anche con quella degli altri, purtroppo. Senta, comunque, all'inizio degli anni 70, Sindona è un finanziere affermatissimo negli Stati Uniti e in Italia, dove viene addirittura visto come l'uomo che può servire per scuotere un mondo dove contano sempre gli stessi. Come ha fatto? Sì, questo, dunque, lui ha fatto, innanzitutto grazie alla sua intelligenza, lui ha capito alcune cose prima di altri, ha capito che doveva darsi un orizzonte internazionale, cercare le alleanze fuori. È stato il primo banchiere privato italiano che ha cercato, a parte Mediobanca, che infatti poi diventerà il suo grande avversario nella persona di Enrico Cuccia, che ha fatto alleanze strategiche con Ambros, con la banca inglese e poi con le banche americane. Quindi orizzonte internazionale in primo luogo, spregiudicatezza e capacità di capire che nel mondo che era cambiato dopo la crisi di Bretton Woods bisognava muoversi con delle regole diverse da prima, e poi naturalmente anche il fatto di essere diventato il banchiere del Vaticano, il fiduciario finanziario del Vaticano. Questo gli diede una reputazione, oltre anche alcune disponibilità finanziarie che lui usò. Sicuramente, e poi però insomma una grande reputazione internazionale, perché se è stato, tutti sapevano nel mondo che contava che Sindona era il banchiere in cui il Vaticano aveva affidato il suo patrimonio finanziario. Lei ha parlato di Enrico Cuccia, ecco, Cuccia e Sindona sono stati anche vicini in un primo tempo, poi cos'è che li ha fatti diventare nemici? Innanzitutto la versione di Cuccia che mi sembra la più plausibile. Enrico Cuccia sosteneva che ha sostenuto e scritto più di una volta, che ha scoperto relativamente presto, nei primi anni 60, che Sindona era un imbroglione e quindi che era una persona inaffidabile, scorretta. In particolare questa cosa è emersa a seguito di un affare in comune che avevano condotto e quindi lui decise di rompere con lui. In realtà Sindona a sua volta dice, specularmente sosteneva che invece era Cuccia, che era una persona che voleva servirsi di lui per fare degli affari poco leciti, per evadere le tasse, eccetera. In realtà c'era un motivo oggettivo, adesso al di là del carattere di Sindona e della sua scorrettezza, c'era anche un motivo oggettivo che portava i due a scontrarsi. Sindona era uno appunto che voleva entrare in un sistema che era allora molto rigidamente definito, in cui Cuccia era uno dei personaggi più importanti. È chiaro che quando entra un outsider come Sindona, poi un outsider così spregiudicato e senza scrupoli, questo crea dell'allarme, da cui l'ostilità, se non subito, insomma dopo pochi anni, feroce tra i due, che finì poi anche molto in toni drammatici, perché quando nel 79, quando Sindona, dopo che le sue banche fallirono, cercò di uscire da fuori dalla situazione in cui era precipitato, da un lato minacciava Ambrosoli fino a poi farlo uccidere, dall'altra ha minacciato pesantemente Cuccia e i suoi familiari in più di un'occasione. Senta, ma lei scrive che in qualche modo l'escalation del terrorismo negli anni 70 ha favorito Sindona e il suo sistema. Ci racconta in che modo? Il terrorismo fu uno degli episodi, uno dei fattori più importanti. La mia tesi è la mia tesi, insomma, non credo che sia una tesi poi che necessiti di molte spiegazioni, è che nell'Italia, nel contesto degli anni 70, che era un contesto di grandissimo disordine economico, politico e anche sul piano dell'attacco alle istituzioni democratiche, in un contesto di grande disordine come quello, Sindona aveva delle chance sicuramente che in un contesto più ordinato, meno sottoposto a shock così violenti, meno destabilizzato, non avrebbe avuto. Questo è il punto. Sindona ha un rapporto diretto con Andreotti già dall'inizio dagli anni 60 e continua a mantenere un rapporto preferenziale con Andreotti, che a un certo punto è diventato Presidente del Consiglio. Ecco, tutto questo probabilmente in un'Italia diversa, in un'Italia più stabile, meno disastrata, forse non sarebbe stato possibile, mi piace pensare. Ecco. Senta, lei sostiene che Sindona sfrutta quell'intreccio di poteri patologico che è stato tipico del modello di capitalismo relazionale italiano. Ma oggi che cosa è cambiato? Beh, oggi per fortuna siamo in un mondo per molti aspetti diversi, siamo in un mondo in cui la concorrenza è entrata nel sistema bancario, in cui un sistema di reti, adesso parlo da un punto di vista economico, in particolare dal punto di vista del settore delle banche, in cui c'è l'Europa, ci sono i sistemi di sorveglianza e di supervisione europea, non siamo più soli, vi sono, possono essere giudicate come in maniera diversa, comunque vi sono delle regole che disciplinano la concorrenza nei vari settori nell'economia italiana e più in generale in ambito europeo, quindi un outsider come Sindona avrebbe molte più difficoltà a far danni. Sotto questo profilo credo che i progressi siano stati importanti. Certo, la preoccupazione, secondo me, esiste ancora, che il guaio, il ecco, difetto... Ma per esempio c'è stata una carenza di controllo e di regolamenti nei confronti delle banche di Sindona, ma c'è stata anche un'analoga carenza, per esempio, nei confronti dello scandalo di Banca Etruria. No, ma sono due fenomeni totalmente diversi, perché? Non sono paragonabili. Intanto la carenza di regolamenti e la carenza di controlli, questo è un dibattito di cui è stato accusato Guido Carli a suo tempo di aver ritardato gli interventi verso le banche di Sindona, e Carli spiegava che lui aveva paura che in quella situazione di emergenza di cui parlavamo prima fosse venuto meno la fiducia nel sistema bancario italiano, l'Italia sarebbe trovata in una situazione drammatica. Però se posso tornare un momento a quello che stavo dicendo prima, pur tuttavia sicuramente l'affare Sindona ha scoperchiato, rivelato attraverso la sua storia personale un intreccio di poteri complessivo, economico, politico, malavitoso e quindi criminale, che è stato per certi versi spazzato via, per altri no. E io mi chiedo, o perlomeno la mia è una domanda, siamo sicuri, se guardiamo la storia successiva, cioè la storia da Mani Pulite in poi, che questa caratteristica di debolezza del sistema italiano, cioè, e quindi questa tendenza a costituire consorterie tra borderline, legittimi e illegittimi, di poteri stranamente definiti, ecco, questa caratteristica è sparita per sempre? Ecco, io me lo chiedo. E cosa si risponde? Io non lo so, io spero di sì, però se leggo alcune cose di anche di affare, adesso non c'è più l'emergenza degli anni 70, per fortuna di morti per le strade o di morti ammazzati per mafia, anche ce ne sono molti meno di prima, però sicuramente se uno guarda episodi recenti di corruzione della pubblica amministrazione, dell'infiltrazione della malavita, uno si chiede se questa caratteristica italiana sia stata veramente superata per sempre. Questo è un po', secondo me, la domanda che la vicenda di Sindona oggi ancora a 30 anni di distanza pone a noi. Se dovesse scrivere un libro sugli attuali scandali finanziari, da quale partirebbe? Beh, insomma, sugli attuali, sì. Guardi, mi deve lasciare il tempo. Io pensavo che mi chiedesse qual è il prossimo libro che volevo scrivere. Lo scandalo finanziario successivo, quello di Sindona, fu quello di Calvi. Erano due facce della stessa medaglia. Ma oggi? Guardi, non ho una risposta sul momento. Ma il prossimo libro è sugli scandali finanziari del chi presente? Chi lo sa? Forse no, non lo so, ci sto pensando. Grazie. Grazie a lei. I David di Donatella. Che poesia. Donatella, buongiorno. Tu ci andresti a vivere in una casa con tante persone che ognuno si fa i cavoli tuoi e tu ti fai i cavoli loro? Ci vivresti tu, dai, dillo. Donatella, dai. Messa così è un po' difficile, non lo so. No, non è difficile, è impossibile, è difficilissimo. Perché io l'estate scorsa, per esempio, sono stata in una casa con dentro mia suocera, 3 nipoti, mia nuora, e avevamo un bagno solo. Donatella, mi scusi, ma che c'entra? Che c'entra? E c'entra, perché mi avete mandato a vedere un film che parla di questo. E io ho pure sbagliato sala e mi sono vista 10 minuti di Heidi. Vabbè, hai capito? Ho capito, Donatella, ho capito. Ma ora ce la racconta, immagino lei stia venendo la comune, giusto? Eh sì, la comune, dove i tizi vincono un'eredità. No, la ricevono l'eredità. Dici? Eh sì, vabbè, dico. Vabbè, comunque la vincono . E si ritrovano una casa gigante e non ci vogliono proprio stare da soli. 450 metri quadri sono troppi. Perché vivere insieme significa potersi percepire, vedere, sentire, ascoltare. Forse un ambiente ristretto ti rende di vedute ristrette. Hai capito? Dice che sono troppi. Roba che io, che con mia suocera che dorme sul divano a letto, andavo in giro con i pattini a rotelle in 450 metri. Vabbè, Donatella, senta, magari un'esperienza interessante, una condivisione, un... È brava, è tipico tuo. Adesso dividere il cesso è un'esperienza interessante per te. Comunque ci mettono dentro un sacco di gente e succede un macello, perché il tizio che fa il professore si innamora di una sua studente e la moglie gli dice: ma no, porta pure lei. Hai capito? È interessante pure questo. Senta, che porta lei. Ma pensa che questo film ha pure vinto un sacco di premi, tipo il coso. Chi? L'animale, dai, l'orsetto. Chi? L'orso a Berlino. Vabbè, è uguale. Senta, Donatella, parliamo del cast? No. Perché? Perché te l'ho detto che sono entrata tardi e non ho visto le scritte. Se vuoi ti dico le scritte di Heidi. No, senta, Donatella, facciamo così. Vale la pena vedere la comune di Thomas Vinterberg? Ecco, se lo sapevo restavo a vedere Heidi. Ma grazie, Donatella. Prego, la vuoi mia suocera sul divano tuo? Ciao Alessandra Cravetto, di che parliamo oggi? Buongiorno. Allora, noi smamme appassionate di cucina, oggi cerchiamo di dare una risposta a una domanda che tutti gli italiani si stanno facendo. Vi starete chiedendo: cosa ci fa Carlo Cracco in un bagno scavolini? Beh, mica posso stare tutto il tempo in cucina. Ale, in effetti è una domanda che mi facevo anch'io, perché proprio stamattina al semaforo l'ho lasciato che mangiava patatine. Quindi adesso, dopo aver mangiato patatine, che farà in bagno? Ma io non lo so, però il punto non è questo, ma il punto è: dove è finito Cracco? Insomma, è evidente che tutti noi, smamme e non smamme, ci stiamo chiedendo: sarà in bagno? Sarà in cucina? Sarà in terrazzo? Vabbè, Ale, scusami, tranquilli, te l'ha detto, è in bagno, ok? Ecco, ma il giorno in cui è in terrazzo, che si fa? Allora, il giorno in cui Carlo Cracco è in terrazzo, c'è una nuova app che si chiama Family Locator, creata apposta per vedere dove si trovano i diversi membri della famiglia in un determinato momento. In realtà era stata pensata per le mamme che volevano controllare le prime uscite dei figli, ma come vedi potrebbe essere applicata a tutti i membri della famiglia, Cracco compreso. Io capisco, però allora, scusami, aveva ragione Guccini. Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto... Ale, Ma secondo te adesso Cracco dov'è? Ma lascia perdere, Cracco. Però se vuoi sapere dov'è tua figlia, tuo marito, no, tuo marito no, no, tuo fidanzato, tua madre, chi vuoi, ti scarichi l'app Family Locator e avrai tutta la situazione sotto controllo. O quasi. Anche no. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno. Allora Pietrangelo, dove mi porti questo fine settimana? Questo fine settimana, ecco, squaderno il libro, ti porto dentro le pagine del Mutterrecht di Bachofen, il matriarcato. No, scherzo, scherzo, ecco. Ho avuto paura. No, ti porto da... Donna, tutto si fa per te. Ecco, ti porto a conoscere Sabrina Scampini, autrice del libro Perché le donne valgono anche se guadagnano meno degli uomini, edito da Cairo Editore. Buongiorno Sabrina. Buongiorno Pietrangelo, buongiorno Alessandra. Buongiorno, buongiorno Sabrina. Ecco, in Italia le donne guadagnano meno degli uomini. Quanto meno? Le donne guadagnano meno della metà degli uomini. Sembra una cifra incredibile e invece è la realtà. Infatti ho chiamato il mio libro Perché le donne valgono, non solo perché siamo uniche, possiamo generare, abbiamo sensibilità diverse dagli uomini, ma proprio perché abbiamo un vero e proprio valore. Perché non è riconosciuto in Italia questo valore, secondo te? Il problema principale è culturale, nel senso che la maggior parte del lavoro non retribuito resta in carico alle donne. In media impiegano 5 ore al giorno per la cura della casa e della famiglia, più di tutti gli altri paesi sviluppati. Sono 5 ore in meno che possono dedicare alle altre attività, come ad esempio lavorare a tempo pieno. Si continua a dare per scontato che la donna debba stare a casa quando il bambino si sente male, debba fare la spesa, occuparsi della casa. È difficile perché i cambiamenti culturali non arrivano da soli, vanno anche accompagnati da delle leggi specifiche. Da noi non ci sono, mentre ci sono in paesi più, diciamo, illuminati, come ad esempio la Norvegia, che promuove una genitorialità condivisa, dei congedi di paternità obbligatorie e retribuite, degli asili nido a prezzi più accessibili. Quindi secondo me, nello specifico, poi la maternità resta uno degli ostacoli più faticosi da superare. Il 30% delle donne occupate lascia il lavoro dopo la gravidanza, cioè ormai dipende dai nonni se una donna riesce a lavorare dopo aver avuto un figlio o no. E questo dovrebbe interessare anche gli uomini, tra l'altro, perché il sessismo impoverisce tutti e sono anche gli uomini che ci perdono. Se arrivano 2 stipendi a casa ci guadagna tutta la famiglia e anche la società intera. Sabrina, ma secondo te sono più gli uomini o le donne i principali nemici dell'equità di genere? Penso che sia finito il tempo in cui le donne combattevano le loro battaglie da sole. Oggi è necessario che l'uomo comprenda la necessità per tutti, non solo per la donna, di cambiare la situazione. Gli uomini possono fare moltissimo e, sempre per rifarci ai paesi dove le cose funzionano meglio, gli uomini sono partecipi dei cambiamenti. Cioè, la discriminazione da noi c'è, anche se qualcuno si rifiuta di vederla e tante volte si respinge come se fossero delle chiacchiere da parrucchiere. Ora, può interessare o meno risolvere la questione del gender gap nel nostro paese, però è un problema reale. Diciamo che gli uomini ancora, secondo me, fanno un po' fatica a farsi comandare da una donna e tra l'altro una maggiore equità aumenterebbe per loro la competizione, perché se devono competere anche con delle donne diminuisce la loro possibilità di avere successo. Però è il mercato, insomma, prima o poi si dovranno arrendere e lasciarci anche a noi la possibilità di farcela come loro. Senti, ma invece quella della competizione femminile per te rimane solo un cliché o c'è qualcosa di vero? La competizione femminile è uno degli altri ostacoli, nel senso che è stato provato da degli studi di settore che gli uomini al potere privilegiano l'ingresso di altri uomini al potere o a fianco a loro, e questo succede meno quando le donne sono al potere. Per questo io credo che se le donne, e anche questo forse è un limite che le donne stesse dovrebbero cercare di superare, se riuscissero ad aiutare di più il loro genere, allora sarebbe più facile anche tutto questo processo di emancipazione che ancora tanto ci manca. Donna Sabrina, col saluto e col grazie, ancora una domanda, l'ultima: quanto danno fa Laura Boldrini alle donne? Grazie. Grazie, grazie, grazie Sabrina. Grazie, perché grazie. Le donne valgono anche se guadagnano meno degli uomini. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. Buongiorno Franco Schifani. Buongiorno Alessandra Fiori. Se non l'avete riconosciuti, fatevi una cultura. Questo è uno dei brani più famosi della storia del rock e del prog italiano. È la premiata Forneria Marconi, ovvero La storia infinita. Premiatissima. Forneria Marconi. Ma quanti sono, per esempio? È un gruppo variabile. Quando c'era Pagani erano un tot, senza Pagani erano meno tot, poi è arrivato Mussida, se n'è andato Mussida, è arrivato Di Cioccio che è rientrato, insomma è un gruppo variabile. È un gruppo tot. Beh. Comunque è l'unico gruppo che ha portato, uno dei pochissimi che ha portato la nostra musica fuori dai confini nazionali. Vi consiglio di vedere, ad ascoltare questa band dal vivo perché è eccezionale. Il primo appuntamento utile per questa sera, venerdì 1 aprile, al Teatro Comunale Bosen alle 20.45. Ne vale la pena. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. È stata definita la più grande cantante del XX secolo. Edith Piaf è passata dalla strada dove cantava per simulare degli spiccioli ai grandi teatri di tutto il mondo. Ci è riuscita grazie a una forza di volontà indomabile ed un talento unico nel suo genere. Beh, è anche la storia di una donna che ha sofferto la solitudine, la depressione e che ha dovuto fare molte scelte tra l'amore e la carriera. Una storia incredibile, ce la racconta Giovanni Minoli, restate in ascolto. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle, mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur.